www.radiovermo.com. Sono sicuro che troverete la cosa molto interessante. Suona per voi DJ Mangia. Enjoy the sound. Thank you. Vicenza Expo. Qui si può. Who is Silvio Berlusconi? He's rich and he's powerful. But is he good for democracy? www.radiooltrepop.com. Oltre ogni limite. Is he good for democracy? www.radiooltrepop.com, la tua radio del cuore. We'll be right back. radio oltre Pop avete, benvenuti sulle nostre frequenze e ora la musica del DJ Mangia. Frequente e ora la musica del DJ Mangia. to make believe it's the first time, and I gotta say to you, love will find a way. No, non è da troppo, questo è il marketing. Io ricevo il risultato cristallo che mi interessa, non sono solo io che ne fosse così. Andando su, giù, su, su, seguo così, seguo giù, non brasso, seguo giù, non brasso, seguo giù. www.radiooltrepop.com Oltre ogni limite. E non è stato facile arrivare fino a qui senza scendere a patti con la porta di casa. E non è mica semplice sorridere oltre i guai, andare contro vento senza un filo di poesia. E tu mi dici sempre di restare umano, di non scoprire il fianco. E tu mi sembri sempre tutto quello che vorrei. Di cui non vergognarmi, avere un passaporto di cui fare a meno. Per questo preferisco gli zingari e i loro furti reali o inventati dai giornali. Per questo preferisco le strade di periferia. Finermente. Pollaroli d'Arcisio, Vittor Arcisio, Vittor Arcisio. Sa buono che c'è più denuncia che c'è più denuncia che debiti del comune da Roma. Debiti del comune da Roma. Thank you. Reverendo Bernocchi. Il reverendo Bernocchi. Ah, pardon. Tra Pia da Piocca come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinda. Come, prego? Tra più sulla supercazzola sacramento a destra o sacramento a destra? No, la cappella sinistra a destra. Antibodi. Sono sicuro che troverete la cosa molto interessante. We'll be right back. Radio Oltretto. Enjoy the sound. Stai ascoltando Radio Oltre Po. And I'm a believer in things I can't deny. I wanna get lost. I wanna get lost at any cost, as long as I can find my way again. Millions of lights in the midnight sky, try and guide me along. some of them wander and some lights fade. Others would steer me wrong. Millions of lights in the midnight sky, none of them bright as you are. I'll set my course by you, my northern star. I am a seeker who cares not what he finds. And I am a healer of any wounds but mine. I wanna get lost. At any cost, as long as I can find my way again. Millions of lights in the midnight sky, trying to guide me along. Some of them wander and some lights fade, others would steer me wrong. Millions of lights in the midnight sky, none of them bright as you are. I'll set my course by you, my northern star. Radio Oltrepò, suona per voi DJ Mangia, enjoy the sound. Enjoy the sound. Thank you. Ehi Nino, scusami. Questa è Radio Oltre Pop Avete, benvenuti sulle nostre frequenze e ora la musica del DJ Mangia. www.radiooltrepo.com. Sono sicuro che troverete la cosa molto interessante.